Sezione ventiseiesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto ventiseiesimo. Mentr'io dubbiava per lo viso spento della fulgida fiamma che lo spense, uscì un spiro che mi fece attento, dicendo: «Intanto che tu ti risense della vista che hai in me consunta, ben è che ragionando la compense. Comincia dunque, e di ove s'appunta l'anima tua, e fa ragion che sia la vista in te smarrita e non defunta. Perché la donna che per questa dia region ti conduce ha nello sguardo la virtù che be la manda Anania». Io dissi: «Al suo piacere, tosto e tardo, venia rimedio agli occhi che fur porte quand'ella entrò col fuoco, ond'io sempr'ardo. Lo ben che fa contenta questa corte, alfa ed omega è di quanta scrittura mi legge amore o lievemente o forte». Quella medesma voce, che paura tolta m'avea del subito abbarbaglio, di ragionare ancor mi mise in cura, e disse: «Certo, a più angusto vaglio ti conviene schiarar, dicer convienti chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio». Ed io: «Per filosofici argomenti e per autorità che quinci scende, cotale amor convien che in me s'imprenti, che il bene, in quanto ben, come s'intende, così accende amore, e tanto maggio, quanto più di bontade in sé comprende. Dunque, all'essenzia, ov'è tanto avvantaggio che ciascun ben che fuor di lei si trova, altro non è che di suo lume un raggio, più che in altro convien che si muova la mente, amando, di ciascun che cerne, lo vero in che si fonda questa prova. Tal vero allo intelletto mio sterne colui che mi dimostra il primo amore di tutte le sostanze sempiterne. Scerne la voce del verace autore che dice a Moisè di sé parlando: «Io ti farò vedere ogni valore». Sternilmi il tuo ancora, incominciando l'alto preconio che grida l'arcano di qui laggiù sovra ad ogni altro bando. Ed io udii: «Per intelletto umano e per autoridade a lui concorde, de tuoi amori a Dio guarda il sovrano. Ma di ancor, se tu senti altre corde tirarti verso lui, sì che tu suone con quanti denti questo amor ti morde». Non fu latente la santa intenzione dell'aguglia di Cristo, anzi, m'accorsi ove menar volea mia professione. Però ricominciai: «Tutti quei morsi che posson far lo cuor volgere a Dio, alla mia caritate son concorsi, che l'essere del mondo e l'esser mio, la morte che il sostenne perch'io viva, e quel che spera ogni fedel com'io, con la predetta conoscenza viva, tratto man del mar dell'amor torto, e del diritto man posto alla riva. Le frondi, onde s'infronda tutto l'orto dell'ortolano eterno, a mio cotanto, quanto da lui a lor di bene è porto. Sì com'io tacqui, un dolcissimo canto risonò per lo cielo, e la mia donna dicea con gli altri: «Santo, santo, santo!» E come al lume acuto si dissonna per lo spirito visivo che ricorre allo splendor che va di gonna in gonna, e lo svegliato ciò che vede aborre si nescia, è la subita vigilia fin che la stimativa non soccorre, così degli occhi miei ogni quisquilia fugò Beatrice col raggio de suoi che rifulgeva più di mille miglia. onde me che dinanzi vidi poi e quasi stupefatto dimandai d'un quarto lume ch'io vidi con noi. E la mia donna dentro da quei rai vagheggia il suo fattor l'anima prima che la prima virtù creasse mai. Come la fronda che flette in la cima nel transito del vento e poi si leva per la propria virtù che la sublima, fec'io intanto quanto ella diceva, stupendo, e poi mi rifece sicuro un disio di parlare ond'io ardeva. E cominciai: o pomo, che maturo solo prodotto fosti, o padre antico, a cui ciascuna sposa è figlia in uro, divoto quanto posso a te supplico perché mi parli. Tu vedi mia voglia, e per udirti tosto non la dico. Talvolta un animal coverto broglia, sì che l'affetto convien che si paia per lo seguir che face a lui l'anvoglia, e similmente l'anima primaia mi facea trasparer per la coverta quant'ella con piacer mi venia gaia. Indi spirò: senz'essermi profferta da te la voglia tua, discerno meglio che tu qualunque cosa t'è più certa, perch'io la veggio nel verace speglio che fa di sé pareglie l'altre cose e nulla face lui di sé pareglio. Tu vuoi udir quant'è che Dio mi pose nell'eccelso giardino ove costei a così lunga scala ti dispose, e quanto fu diletto agli occhi miei, e la propria cagion del gran disdegno, e l'idioma che io usai e fei. Or, figliuol mio, non il gustar del legno fu per sé la cagion di tanto esilio, ma solamente il trapassar del segno. Quindi, onde mosse tua donna Virgilio, 4302 volumi di sol desiderai questo concilio, e vidi lui tornare a tutti i lumi della sua strada 930 fiate, mentre ch'io in terra fumi. La lingua ch'io parlai fu tutta spenta innanzi che all'ovra inconsumabile fosse la gente di Nembrotte attenta, che nullo affetto mai razionabile per lo piacere uman che rinnovella, seguendo il cielo, sempre fu durabile. Opera naturale è quom favella. Ma così, o così, natura lascia poi fare a voi secondo che va bella. Pria ch'io scendessi all'infernale ambascia, el s'appellava in terra al sommo bene, onde vien la letizia che mi fascia. Eli si chiama poi, e ciò conviene, che l'uso de mortali è come fronda in ramo, che sen va ed altra viene. Nel monte che si leva più dall'onda, fui io con vita pure disonesta, dalla primora a quella che è seconda, come il sol muta quadra, all'ora sesta. Fine del canto 26.